Ciao ragazzi, ci siamo qui a Di Maro, un bel ritiro con questi napoletani da qua che sono Forza Napoli quest'anno. Vai ragazzi! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Strategia per venderlo più caro a un prezzo altissimo, sta dicendo a tutti gli altri club che Gonzalo Higuaín costa 90 milioni di euro, se lo vuoi prendere lo puoi prendere, però 90 milioni di euro. Secondo me se un giocatore è intransferibile, io non metto un prezzo, io dico il giocatore è intransferibile, di qua non si muove. Non andare via, quel che è stato e non conta più, ha dimenticato, dimenticherai tutti i malintesi e i giorni spesi a spiegar perché. E Nicolas, che è una persona straordinaria, che io adoro, con il quale abbiamo un fantastico rapporto, vivendo lontano dall'Italia non ha seguito quelle che erano le continue fallaci dichiarazioni della Gazzetta dello Sport, la quale diceva un giorno che io stavo vendendo a 40 milioni Higuaín, un altro giorno a 50, un altro giorno a 60. Allora io ci ho tenuto a precisare che Higuaín ha una clausola rescissoria e l'ho dichiarata proprio per dichiarare che è inamovibile. Non andare via, per te inventerò. Ciao Giorgio De Luca, autore di questo programma. Ciao Paolo Correoni, che è in regia. Ciao Giovanni Melchiori, che è in redazione. Ciao Pardo. Ciao, come va? Benissimo. Bene. Allora, Higuaín va via o non va via? Non credo che vada via, anche se diciamo che siamo a delle schermaglie abbastanza interessanti. Sì. Abbastanza, sì, dal punto di vista drammaturgico abbastanza divertenti, anche è chiaro che il procuratore qualche sassolino, il fratello procuratore si è tolto qualche sassolino, il presidente ha ribadito, è chiaro che la clausola rescissoria a 94 milioni equivale di fatto a quello che dice Terrenti, cioè a una sostanziale incedibilità del giocatore. Incedibilità, certo. Beh, stesso, 94 adesso non è Higuaín piace le matti, però credo che la valutazione sia più bassa, quindi 94 milioni apparterrebbe alla categoria delle... Vuol dire non voglio venderlo. Esatto, vuol dire non voglio venderlo. Pier, fammi dare una notizia. Sì. Ciclismo, terminato e perfettamente riuscito l'intervento di Van Basso, pronuncia eccellente, il ciclista italiano verrà dimesso domani. Ottimo. Questo è quanto? Questo è quanto e credo sia la notizia più bella della giornata. Assolutamente, guarda, hai fatto stride, no? Il modo. No, volevo darla subito perché hai fatto benissimo, no? Ma dico stride perché appunto in 5 secondi siamo passati dal piano importante, per carità, fondamentale del mercato, i soldi, i sogni dei tifosi, ha una storia che invece è una storia personale, che è una storia in questo momento di coraggio, anche di paura inevitabilmente, ma che, insomma, ci auguriamo che possa concludersi nel migliore dei modi. Ho sentito la dichiarazione del medico di ieri, questo 98-99%, che chiaramente non è il 100%, ma che lascia ben sperare. Questa notizia che ci dai è positiva, è positivo. Lui poi, insomma, Radio 24, tu in particolar modo e i colleghi che si occupano anche di altri sport hanno un rapporto anche proprio speciale con i bambini. Sì, quindi, questo è vero. È un amico non mio personale, ma di questa radio. Ha avuto la voglia di condividere i suoi diari del Tour de France e del Giro d'Italia con questa radio, e quindi è un rapporto preferenziale. Ti do un'altra notizia. Moggi assolto, due punti. Non ci fu diffamazione nei confronti di Facchetti. Finalmente ho avuto giustizia, dice Moggi, dal Tribunale di Milano. Quindi assolto nei confronti di queste dichiarazioni, eccetera, eccetera. Poi ne parlerà la gente, 800240024, però questa è la notizia. E qui, insomma, anche qui un po' un commento. È lunga, storia lunga. Alla fine in qualche modo è anche una storia che riguarda tecnicismi da tribunale, con tutto rispetto per i tribunali, per carità, per i magistrati e per gli avvocati che fanno pienamente il loro lavoro. Rimane la sostanza storica di una sfida che è stata combattuta in campo e anche fuori, è stata combattuta anche dialetticamente e che a distanza di tanti anni lascia due eserciti. No, lascia completamente distanti. Ma sì. Ovviamente lascia una realtà. Lascia un sacco di amarezza, Pierluigi. Ma sicuro. Che ci porteremo dietro fino alla fine delle nostre carriere e di quelle che arriveranno dopo di noi. No, questo senz'altro, però voglio dirti, mi rendo conto tutte le volte anche che si solleva l'argomento Calciopoli, se adesso per esempio dovessimo ricordare 800240024 sarebbe abbastanza facile, secondo me, recuperare subito persone da una parte e dall'altra, perché rimane una ferita aperta in tutti e due gli schieramenti, da parte di chi ha avuto giustizia ma ne voleva di più e comunque vuole ribadire una superiorità morale del proprio club, e da parte di chi invece è convinto che quella vicenda poi alla fine abbia tolto delle vittorie e delle sensazioni che quella squadra comunque eccezionale, perché no, nessuno credo possa discutere il fatto che la Juve era molto forte in quegli anni lì, avesse vinto sul campo come da definizione. Quindi insomma, al di là della realtà storica e ufficiale degli studenti che sono stati tolti, e questo è oggettivo, io dal punto di vista culturale di rapporto con i tifosi ti dico che mi sembra una ferita ancora clamorosamente aperta da una parte e dall'altra. Traffico, poi torniamo. Pipita, se avevi paura di tirare i calci di rigore, avevi vinto la Coppa America e forse il Napoli tricolore. Tutti convocati. Tutti convocati. Sta lontano da sto cuore, a te vola sto pensiero. No, devi neanche tu, Niente voglia, niente spera, che tu pensi solamente a me. Sì, sicuro chi sta amore, come so sicuro te. Oh vita, oh vita vita, oh cuore, e si su cuore, si sta. Com'è la voce di Laurentiis, Pier? Beh, buona, diciamo. Non male, Meglio il cinema, meglio il cinema. Meglio il cinema, sono d'accordo con te. È uomo di spettacolo, ci sono dubbi. Devo dire che la strofa di O vita mia, secondo me, non tanto il ritornello, ma la strofa rimane una bellezza sconcertante, proprio, veramente. Una canzone che riassume proprio la follia, la passione, l'identità di una città intera, quindi veramente è molto molto bella. De Laurentiis è chiaro che è un napoletano adottivo, sta lavorando per rendere il Napoli sempre più forte, anche se poi io intanto sono per indagini. Ma io, sai Pier, vorrei sapere dai tifosi del Napoli se vorrebbero tenere Higuaín a tutti i costi oppure no. 800240024, perché questo è il discorso. Cioè, sì, certo. Al di là di una clausola rescissoria che è improponibile, perché 100 milioni, 90 milioni per Higuaín non li pagherà mai nessuno, però il discorso è se Higuaín è al centro del villaggio oppure no. questo e si ha voglia, e si ha voglia di essere al centro del villaggio. Questo è il secondo tema, perché io credo che nessun club, quantomeno un club comunque con ambizioni importanti come il Napoli di Sarri, abbia minimamente voglia di privarsi di un giocatore così. Non credo che ci possa essere discussione. In questo ha ragione il fratello ieri quando sottolinea che, d'accordo, sì, i calci di rigore non sono dei dettagli, però è stata una stagione da quasi 30 gol. Nino non aver paura. No? Nino non aver paura, anche perché poi alla fine, abbiamo ricordato, senza i due gol contro la Lazio dallo 0-0-2, questo non ci sarebbe stato. Quindi stare lì a prendersela con Higuaín perché ha sbagliato il rigore, è ovvio che ci sta come ragionamento, però insomma, se non ci fosse stato Higuaín probabilmente la partita finiva 0-0. Quindi poi alla fine diciamo che ha vanificato un bonus che stesso aveva costruito, no? Io penso che Higuaín sia fortissimo, penso che Higuaín con la partenza di Tevez sia ad oggi l'attaccante più forte, sì, del campionato, sì, poi sì, ovviamente c'è Icardi, ovviamente c'è Dybala, ovviamente c'è molto Mandzukic, vediamo chi prende la Roma, però insomma, siamo su quei livelli lì. Ma secondo te, Pierluigi, Sollazzo come la pensa? Signor Boris, come la pensa? Beh, Boris Sollazzo, io intanto dico, Nino, non aver paura di smettere di tirarli questi calci di rigore, non no, vabbè, Boris è ora anche di dopo un po' è ora di smetterla. Però detto questo, guarda, io credo che come al solito ci sia un po' di sceneggiata da parte di tutti e due, perché Nicolas Higuaín è uno che parla tanto, parla troppo, e Aurelio De Laurentiis non è uno che parla di meno. La verità è che in questo momento è molto probabile che Higuaín rimanga solo ed esclusivamente perché nessuno dà neanche la metà a De Laurentiis di quello che De Laurentiis vorrebbe o penserebbe di poter avere, e nessuno arriva a dare 5 milioni e mezzo più bonus a Higuaín fuori da Napoli, perché la stagione, come dite voi, forse siete stati troppo severi con Higuaín, forse no, però la stagione di Higuaín inizia... No, non credo noi si sia stati troppo severi. No, io appunto, io ho una chiesa, però questa stagione inizia con un errore gravissimo nella finale mondiale di Higuaín e finisce con un errore gravissimo nella finale di Coppa America. Non parliamo neanche di tutto quello che ha sbagliato con Napoli, col Dnipro, perché poi da tifoso napoletano bisogna sempre ricordare che quei 53 gol ti hanno consentito di arrivare a quei traguardi che poi Higuaín ha fallito, quindi senza Higuaín non ci saresti arrivato, no? È un po' come Gervinho il primo anno, quando Garcia diceva quelle occasioni non esisterebbero senza Gervinho, quelle occasioni sbagliate non esisterebbero senza Higuaín. Io credo che rimarranno insieme, io spero che Higuaín lo faccia con voglia. A me sembra che Nicolas Higuaín cerchi solo il modo di trovare nella società qualcuno che faccia sentire importante il fratello, perché sicuramente in questo momento... Più di così, Boris, più di così. No? Cioè, più di così, lo vendiamo a 100 milioni di euro, più di così mi sembra difficile. Infatti secondo me la stupidità dell'uscita di Nicolas sta nel fatto, perché dire questa cosa, perché dire della clausola, ed era l'unico modo invece per dire è incedibile. Cioè, ma a 100 lo porti tu in macchina, no? Ma a 100 lo porti tu in macchina ovunque. Anche 75, se lo dire. Però dico, il problema è che De Laurentiis è il tipo che forse dovrebbe essere un po' più smaliziato nei rapporti con questi che sono comunque dei bambini troppo cresciuti e che vogliono essere coccolati. Tutto nasce, il problema di Nicolas Higuaín nasce dal fatto che è stato 3 settimane a Napoli e De Laurentiis, preso dal rifondare la squadra, da avere un nuovo allenatore e tutto quanto, non lo ha sentito anche perché temeva probabilmente che Higuaín bussasse a denari nella stagione in cui meno poteva bussare a denari, e per evitare l'incontro diplomatico non si sono incontrati. Mi sembra che non ci sia stato, poi può succedere di tutto, ma non ci sia stato mai anno in cui l'attaccante del Napoli è più sicuro di rimanere anche l'anno dopo. Sei d'accordo, Pardo? Sì, ma infatti è un problema molto relativo che sta appunto soltanto in queste schermaglie, in questi piccoli malintesi da spegnere prima che diventano, che possono diventare più grossi e divampare con annesse polemiche. Ripeto, Higuaín è fortissimo, il Napoli ha clamorosamente bisogno di lui, tra l'altro più passa il tempo, più passano i giorni, più diventerebbe difficile sostituirlo poi a livello di campagna acquisti, per cui io credo che non ci siano grandi discussioni. L'unica vera incognita è nell'atteggiamento del giocatore, che per un altro anno deve fare a meno della Champions League, e il giocatore che si sente la Champions League lo scorso anno, dopo la sconfitta col Bilbao, ci fu un periodo, secondo me, un po' di appannamento, di scarso entusiasmo da parte di Higuaín, che poi si sbloccò contro il Verona, se non sbaglio, a ottobre. Insomma, partì abbastanza male in campionato, poi si è sbloccato. È un giocatore che quando sta in forma può veramente fare cose pazzesche. Forse gli manca, per quanto è bravo, per quanto è tecnico, per quanto è forte, gli manca un po' di cinismo. Cioè, esistono attaccanti migliori dal punto di vista proprio della freddezza sotto porta. Gli errori ai quali faceva riferimento Sollazzo sono indiscutibili e sono tanti. In questa no, ma ci pensi pure alla semifinale col Dnipro, cioè veramente il problema forse caratteriale c'è. Il punto è che secondo me noi ci troviamo intanto con un allenatore che sta piacendo agli ti piace a me, piace molto. Cosa ha bisogno il Napoli adesso? Adesso secondo me a me non dispiacerebbe Bartra del Barcellona, ma stiamo facendo fantamercato. Basta prendere, secondo me, altri due o tre giocatori, così come si sono presi adesso. Cioè, prenderei Sala per esempio e non Versalico. Preferirei puntare su qualcuno che non senta. Io prenderei Versalico e non Sala. Però il gusti personali, il problema è che a Napoli un terzino che arriva con 15 milioni di euro di valutazione fa la fine di Hiller, cioè schiacciato sotto il peso della propria ipervalutazione, come è successo anche ai Turbe. Invece questa è una squadra operaia e deve secondo me avere anche costi operai, cioè di giocatori che si vogliono rifare o che di giocatori che vogliono avere la loro grande occasione, come Valdifiori, come Astorie. Secondo me devi puntare su quello, e a quel punto Higuaín diventa il condottiero, cioè quello che lui non si è mai preso la responsabilità e che non ha mai fatto, e che forse con uno come Sarri può riuscire a fare, anche perché se Higuaín giocherà con impegno, con un modulo come quello di Sarri segnerà gol a palate, li segnerà soprattutto lui. Sai, stiamo parlando di squadre operaie e di attaccanti che costano 100 milioni di euro, mi sembra si sia una distonia in tutto questo. Se ci pensi, ce ne sono state più di una che avevano grandissimi cannonieri e poi giocatori ordinari dietro, che sono un certo tipo di atteggiamento da recuperare. Io ho fatto qualche giorno a Napoli, mi sembra che la richiesta dell'ambiente sia questa, e la benevolenza con la quale è stata accolta Sarri è proprio per questo, perché si spera di poter trovare una squadra più affamata, più operaia, come si diceva una volta, più provinciale in certi atteggiamenti, col coltello tra i denti, con questa famosa maglia sudata. L'altro giorno si parlava di testo della nuova maglia, l'importante è che sia sudata, perché il Napoli dell'ultimo anno sicuramente nel secondo anno e nel primo aveva questo difetto, insomma, ed è andato di fatto. Tante volte ha sbagliato completamente approccio alla partita, sembrava stare un po' svogliata e senza quella carica necessaria, ma in realtà soprattutto davanti sono enormi. È riuscire a trovare la sintesi tra qualità tecniche e voglia è la sfida che ha dato. Difficile. Posso fare una provocazione? Falla. Che è anche una considerazione sulla povertà del calcio italiano. Noi parliamo tanto di squadra operaia, parliamo tanto di Napoli che si ridimensiona. Quante squadre in Serie A possono vantare due campioni come Reina e Higuaín? Poche, ma non c'è discussione, poche Boris Sollazzo, mettici pure Antic, mettici Hiller col centro K3, che secondo me può essere un giocatore. Ma Gagliardini, Insigne, ma io parlo proprio di quelli internazionalmente riconosciuti, con Tevez e Pirlo. No, ma poche, infatti secondo me è un errore ridimensionare in questa maniera Napoli. Il Napoli corre per il secondo posto. Cioè, sì, Juventus in pole position. Però non ha venduto nessuno. E non è che sembra che nessuno se ne vada, perché a Leone continuano a offrire tanto quanto ha speso De Laurentiis per portarlo da Napoli da Madrid. Lui non lo vende. Cioè, no, Caleon va via. Boris, Caleon va via perché vuole andare via, perché ha i suoi problemi personali, e quindi si tratta soltanto di trovare un accordo con qualcuno. Ciò però non stiamo toglie. Stiamo parlando di un ridimensionamento che ancora non è avvenuto nemmeno quantitativamente. No, su questa hai ragione. Tanto che è tornato quel portiere che secondo me ha fatto la differenza a Napoli negli anni scorsi. Ciao Boris, ci sentiamo alla prossima. Ciao. Alla prossima, ciao. Pardo, rimani con noi, Borsa, torniamo. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Convocati. E Recebeu do Rivaldo, passe, posição legal, Rivaldo Júnior, pra fazer, Rivaldo Júnior, gol! É do Mojimirim, pela terceira vez, Rivaldo Júnior com o pai, com o Rivaldo, abraço do pai, o beijo do filho no rosto do pai, o momento de alegria, de respeito, de reverência. Mi ha raggiunto Marco Berinazzo, che saluto dal piano di sopra. Ciao, buon pomeriggio. Sono 24 ore, ciao. Pierluigi, hai sentito l'audio di Rivaldo, anni 43, proprietario del club Mojimirim, che fa l'assist al figlio, non Rivaldo Junior, ma Rivaldinho? Sì, Rivaldo Junior, Junior. Rivaldo Junior, Junior, Junior. E, beh, insomma, lui è stato un grande. Libro cuore? Libro cuore. Libro cuore, esatto. È stato un peccato, a un certo punto di vista, evitare averlo visto tardi, averlo visto in una fase in cui era già in parabola discendente. È stato un giocatore enorme dal punto di vista tecnico, barocco mi verrebbe da dire, no? Molto estetico, più estetico magari certe volte che efficace, ma insomma siamo nella categoria dei grandi. Quindi... In tema di grandi e di quarantenni, Roberto Carlos tornerà a giocare. Avrà questo ruolo ancora, ma basta. Allenatore, basta. Giocatore nei Delhi Diamonds da ottobre, basta. Squadra indiana. Io sono dell'idea, allenatore, che, giocatore. Io sono dell'idea che bisogna mettere un punto. Lui ha messo un bel punto, sarà ben pagato. Ha messo tre punti di sospensione. Ha messo un punto sulla panchina, una virgola in campo. Ma magari farà il libero, il registro. Centravanti. Sei tennisti over 35 da tanti anni hanno cominciato a girare il mondo per fare tornei, esibizioni, eccetera, perché evidentemente c'era voglia di vederli in campo. Insomma, se le partite del cuore di tutta Italia, di tutta Europa sono piene, e appunto c'è tutto esaurito a Monaco di Baviera piuttosto che al Bernabeu per vedere Bayern Inter o Real Madrid Milan, vuol dire che la memoria ha un valore. E chiaramente quei paesi che non hanno avuto la possibilità che non hanno la tradizione di avere dei campionati realmente competitivi, insomma, sognano, però restano i soldi, sono i nuovi ricchi e quindi possono. Sì, però io sono dell'idea, Pier, che i giocatori devono anche arrivare ad un punto in cui dicono: vabbè, basta. Cioè, ci sono i soldi, c'è il divertimento. Sono i soldi. No, ma io capisco che da un punto di vista d'immagine non sia il massimo della vita. Però è anche vero che alla fine fatti loro. Cioè, sì, no, no, no, cioè, nessun, io ti nessuna dico, discussione. Un'esperienza in India, finché c'è qualcuno che li paga va bene così. Ma però... sì, voglio dire, sono esperienze talmente marginali e talmente secondarie, con tutto il rispetto, che non cambiano la percezione. Cioè, per noi occidentali, cioè per noi che li abbiamo visti giocare i mondiali, che li abbiamo visti nel nostro campionato piuttosto che nella Liga, insomma, poi alla fine... Non cambia molto, sì, ci può essere un istante in cui dice può fare un po' tristezza, perché però insomma sono anche variabili secondo me strettamente economiche, ma forse anche di divertimento, perché poi insomma magari gente così a 40 anni può ancora ritagliarsi un po' di divertimento, quindi se vogliamo essere un po' meno business oriented alla Berinazzo, un po' più romantici, forse c'è anche questo. Sono dei posti dove possono continuare in qualche modo di fronte a un nuovo mercato, a nuovi tifosi, a diffondere il proprio mito, quindi una forma di evangelizzazione. Sì. No, non poco. Ma secondo me io punto all'aspetto economico, all'apertura di nuovi mercati e alla ricerca di nuovi mercati. Gianluigi da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti, io sono un tifoso milanista e rispetto ai brasiliani il mio sentimento è quello ci sono Aquilani, Osvaldo, mi dice Giorgio, Osvaldo a Cruz Azul in Messico, l'Aquilani andrà a Montreal in America, non per autocitarmi, ma è goal economy, insomma. Goal economy. Dobbiamo accettare, forse è bello anche questo, no? Io sono nella pace dei sensi e dopo aver purtroppo già capito anticipatamente che avrei buttato l'abbonamento l'anno scorso vedendo Inzaghi come ha gestito la squadra, nonostante io continui a stimarlo perché per me è veramente un riferimento per la squadra, per la società Pilan, intendo dire, mi spiace che si sia bruciato, però ecco, rimango ancora perplesso, da qui chiedo anche a voi, veramente senza mezzi termini, che ci dite qualcosa in merito a questo continuo, diciamo, passo del gambero, un po' qualche passo avanti, un po' qualche passo indietro. Ibra per me... o non Ibra? No, ma più che altro anche Sharawi, 22 anni, se ne va. Cioè, io vorrei sapere se andiamo avanti. Sharawi è un giocatore, Sharawi 23, se ne va per 16 milioni di euro al Monaco e è un giocatore che non gioca da 2 anni e mezzo. Ma mi pare, forse sbaglio, che i mass media avessero detto che Mihajlovic lo voleva far giocare. Anche Mihajlovic Berlusconi, è rimasto stupito. Berlusconi lo voleva far giocare. Berlusconi. Ho capito. Voglio fare un processo alla nostra categoria, è che si va avanti anche per tentativi di errori e frasi fatte, cioè magari Mihajlovic in qualche dichiarazione avrà detto mi piace molto il Sharawi, adesso non lo so, è chiaro. Sì, voleva farlo giocare sul campo. Io ti dico, Gianluigi, secondo me il Milan sta facendo una squadra veramente pensata sul presente, sul qui e sesto posto, ottavo posto ancora. No, ora è qui, quello che ora mi chiedo qui, senza ora è qui. Secondo me sta facendo, non ci prenda più in giro, ecco. Poi secondo me arriverà Ibra. Anche secondo me la del mondo però non è che così si fanno gli abbonamenti, voi lo sapete, la Juventus ha già terminato gli abbonamenti e il Milan e i milanisti faranno fatica forse a riempirne 15.000 come l'anno scorso, insomma, però noi non ci facciamo prendere in giro, voi lo sapete, il tifoso non si fa prendere in giro. No, ho capito, però a me sembra che i soldi quest'anno ci siano, cioè il Milan ha appena fatto un'offerta di 25 milioni per Romagnoli. Ha preso due giocatori davanti comunque più che interessanti, soprattutto Bacca secondo me, e se dovesse arrivare Ibra sarebbe un colpo, ma mi sembra che rispetto all'anno scorso sia un'altra storia, mi sembra. Beh, se c'è da lamentarsi economico... anche quest'anno rispetto agli ultimi 2-3 stagioni di calciomercato. Beh, certo, Marco. È un po' troppo, mi rendo conto che la tifoseria milanista è abituata a ben altro, viene da anni difficili, certo. Però siamo in una fase in cui diciamo c'è da chiudere ancora questa trattativa, manca ancora qualche settimana alla fine, anzi meno di una settimana, meno di qualche settimana alla fine di luglio, quando scadono i termini per la chiusura appunto dell'accordo. La Fininvest insomma un po' di soldi li ha anticipati, questo vuol dire che c'è grande fiducia sulla conclusione dell'accordo con Mr. B, e mi pare che insomma anche con la guida tecnica di Mihajlovic si stiano andando a prendere dei giocatori che servono, e magari giocatori su cui in passato ci si era illusi siano stati ora ceduti facendo cassa, facendo dei buoni introiti. E Sharawi è un'operazione molto intelligente, insomma, a questo punto 16 milioni per un giocatore che è forte, è bravo, però un giocatore su cui ci sono e persistono grandi dubbi. Sì, ha dimostrato di essere un grande per mezza stagione. È mancato fin qui alla Roma, è il colpo in uscita che è mancato fin qui alla Roma. Nel senso certo, che certo. Poi il Sharawi, certo, e glielo auguriamo di cuore, magari tornerà a essere fra 3 anni o fra 5 anni. Ma per tutti noi, per la maglia azzurra, per tutto quello che vuoi, però è un giocatore che non gioca da 2 anni e mezzo. Ma scusami, Pier, è il colpo in uscita che sta mancando anche all'Inter. Ho letto stamattina dell'arrabbiatura di Tohir, perché nessuno se ne vuole andare, e lì qualcuno se ne deve andare. Perché diciamo Rosa 25, a livello di entrate si è fatto molto, si è fatto anche molto bene con giocatori di qualità, si è speso molto, ma i conti anche per la UEFA insomma devono essere messi un attimo in equilibrio, e quindi qualcuno anche di importante o rilevante deve andarsene, e quindi Tohir li accompagnerà personalmente alla porta del piano gentile di Malpensa. Berlusconi su Ibrahimovic. Silvio, ce lo compri? Se viene, certo. Dai, faccio un regalo. Silvio, se lo compri, se viene, lo compriamo. Dino Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Mi chiamo Dino, da Vicenza vi parlo. Io sono tifosissimo del Napoli. E volevo dirvi la mia sul discorso di Higuain. Secondo me Higuain è stato tenuto solamente per far mantenere la popolarità a De Laurentiis e al Napoli. In pratica il Napoli viene da una stagione fallimentare e quindi per salvare la faccia toglici, in pratica tu ci togli la Coppa Italia, fallisce in Coppa UEFA, all'inizio ha fallito in Champions League, se gli togli pure Higuain a quel punto mi perdi di popolarità. Però tenere un giocatore scontento, perché lo sappiamo benissimo, Higuain è scontento, lui vuole farsi la Champions. Ho capito, però Higuain lo pagano fior di soldi, è un signor giocatore, è il capo della squadra. A me dà fastidio anche vedere questo atteggiamento da parte dei giocatori. Sì, ma anche perché poi insomma, così come ho ricordato che Higuain ha fatto quasi 30 gol e in quella famosa partita con la Lazio l'aveva riaperta lui. Sì, però insomma, se il Napoli non è in Champions League è anche per colpa di Higuain, soprattutto contro il Dnipro, che ha fallito tantissime occasioni. Per cui insomma, io la vedo diversamente. Io penso che Higuain si sia reso conto l'anno scorso di aver sbagliato tanto. Cioè, io penso che questo stato di confusione emotiva e di dispiacere per aver fallito tante occasioni, lui ce l'abbia presentissimo veramente, credo che in qualche modo l'abbia condizionato. Penso che sui rigori ci sia un chiaro problema psicologico che nasce dal fatto che più sbagli e più diventa complicato riuscire a fare gol. Certo. Berinazzo, che tifoso del Napoli, quello vuole o no? Lo voglio, perché mi aspetto che guidi la squadra, la ti nuova squadra, mi aspetto che sia il valore aggiunto l'anno prossimo in una nuova squadra, in una nuova esperienza, che dia al Napoli quello che è riuscito a dare, magari anche non perché ha tutte le colpe l'anno scorso, e peraltro offerte diciamo sopra i 60 milioni non ne sono giunte, per cui De Laurentiis lo tiene per questioni di popolarità, certo, ma anche per questioni di cassa, perché comunque è stato pagato di fatto 40 milioni, sono due anni, quindi se non arriva un'offerta da 60 milioni non è che si fa una grossa plusvalenza, di conseguenza è meglio tenerlo in squadra, anche perché poi a quel punto dovresti andare a trovare sul mercato di corsa un centravanti da almeno 15-20 gol e non mi pare ce ne siano tanti. No, non tantissimi. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. E non so come abbiano fatto, perché il fair play finanziario è proprio andato così a super sballare. Chi si è rinforzato, chiaramente poi questo bisognerà capire cosa ha intenzione di fare il signor Platini, perché gettare un sasso nello stagno e nascondere la mano è sempre gravissimo, soprattutto quando uno rappresenta ad alti livelli un'istituzione importante a livello europeo come il calcio. Questo l'avrete capito, De Laurentiis sul fair play finanziario. Marco Berinazzo qui con me, Pierluigi Pardo al telefono, Pasquale da Napoli in collegamento. Poi parliamo anche di una Lega Pro che praticamente non esiste più. Beh, almeno mezzo girone è sparito, altro mezzo partirà con le penalizzazioni, sempre per problemi finanziari, ahimè, vedi tu. E si dovrebbe, come dire, prendere atto di questa cosa. Di fatto i ripescaggi sono stati bloccati dall'anno prossimo, ma è stata apposta per essere ripescati una tassa di 500.000 euro che credo in pochi potranno permettersi. Di sicuro fatto, non Venezia, Regina e Varese che sono state già escluse, e peraltro con storie molto particolari, perché il Venezia qualche anno fa era stato comprato da un russo che aveva promesso di tornare in Serie B, di costruire lo stadio, e non si è visto nulla. Il Monza è passato tra americani, britannici, gente senza soldi. Cioè, l'unico che ha pagato in realtà il giocatore è stato Seedorf, quando c'è stato per un po', dopodiché i giocatori si sono pagati il panino, la schiscetta per andare a giocare all'estero, e siamo stati, come dire, condizionati. Peraltro in una stagione, una tempesta perfetta tra calcio scommesse, incapacità di pagare gli stipendi o le fideiussioni, e quindi di fatto ci ritroviamo ora già con una Lega Pro che aveva 90 squadre, è arrivata a 60, ora ce ne sono 51. quindi ci potrebbero essere tre gironi da 18, questo al netto poi delle sentenze della giustizia sportiva che arriveranno tra un po' e vedremo con delle calma, belle con calma. Anche lì. Sai cos'è la schiscetta, Pardo? Sì. Pier. Beh, ma Pierpaolo non mangia la schiscetta. Sai cos'è la schiscetta? No, la schiscetta lo so cos'è e sì, a Roma va più il tonnarello, diciamo. Però la schiscetta è il panino che ti porti da casa, no? Il lavoratore del Bagucci, no? Sì, è quella. Sì, mi sono milanesizzato, si vede da questi particolari che si vede, che si giudica il giocatore. No, che si mangia a Napoli? Salsiccio e Fiarielli, diciamo, che sono un po' la specialità che mi mancano molto in questo anche momento. Anche Pasquale li mangia. Buongiorno. Salve, buongiorno a tutti, grazie per la convocazione. Come si dice schiscetta a Napoli? No, come? Non ho capito. Schiscetta, cioè il panino che ti porti da casa. Il panino, no, con questo caldo salsiccia e friarielle è troppo pesante. Il casatiello. Quindi sì, che si mangia? Quindi che si mangia? Tonno e pomodoro, oppure una bella caprese. Oppure no, la definizione è amarenna. Un qualcosa di leggero con il caldo che sta facendo. Aspetta Pasquale, no, com'è la definizione per il diciamo della schiscetta in napoletano sarebbe amarenna sotto braccio. Beh, più per Pasquale altro, ma non è il momento, passerei oltre. Io chiamavo per quanto riguardava il discorso di Higuain. Non per la Casatiella, no. No, per il Casatiello. No, ok, va bene. Higuain. Sì, io penso che quest'anno lui rimane a Napoli soprattutto perché non sia arrivata un'offerta ufficiale soddisfacente per il presidente. Nessuno vuole, come si dice? No, anzi, noi ce lo teniamo ben stretto, perché oggi credo che in Italia, dopo l'addio di Tevez, sia il miglior centravanti che ci sia. Sì, questa è l'idea anche di Pierluigi Pardo. Io sono abbastanza d'accordo. Io lo cambierei per un solo giocatore, un solo centravanti che in questo momento è sul mercato, che però il nostro presidente, cioè? Per una questione... Ibrahimovic. Questa è anche un'idea di Pierluigi Pardo. Io già l'avrei fatto 2 anni fa quando è andato via Cavani. Io sto parlando con Pasquale o sto parlando con Pardo? Perché lui mi dice sempre queste due cose. Ibra vuole molto di più, giusto? Il Milan gli ha offerto pare 3 anni a 6 milioni l'anno, probabilmente anche 3 anni è una follia comunque. Ho capito, tra l'anno diciamo sono 18, confermi Beninazzo, sono 18 sì, milioni sono... più sono 18 milioni e quindi sono circa 36-38 milioni d'ordi più poco. Diciamo 6-7 milioni che dovrai dare fra una cosa, fra un mal di pancia e l'altro dovrai dare al Paris Saint Germain, quindi è un investimento da 45 milioni. È chiaro, è un investimento sull'oggi, non c'è discussione su questo, è ovvio. Però che 3 anni non sono oggi, Pierre. Sì, però io ti dico che insomma Napoli, e ci metto anche Roma, perché secondo me sono le due realtà più simili da questo punto di vista, hanno fatto tanto, sono cresciute tanto. Il Napoli si è tolto delle soddisfazioni in Coppa, la Roma con queste Champions consecutive conquistate, questa marea di secondi posti che comunque sono importanti, cioè al netto della delusione del tifoso, però il secondo posto significa che va in Champions e quindi Beninazzo sorride, no? E anche le casse della società. Sì, però io non sorrido perché non mi arriva nulla, però voglio dire, economicamente funziona. A quel punto devi provare, una volta nella vita devi provare a uscire con Pier, al di là del tuo discorso che fila alla perfezione, Inter e Milan non hanno un domani. Cioè, appunto, devono andare in Champions. Hanno un presente, sì. C'è l'oggi, insomma, che c'è la Champions da conquistare. Le occasioni che si potevano sprecare sono state già sprecate in questi anni. Ora devono tornare se vogliono riconquistare la posizione che il blasone detta per quanto ora è qui. L'Inter rischia un po' di beccare un'altra nuova sanzione dalla UEFA, ma se ne riparlerà fra 2 anni e quindi gioca un po' su questo elemento temporale, magari farà più cessioni l'anno prossimo, insomma, ma il Milan ha la possibilità di incamerare molti soldi, la Fininvest con l'operazione Mister B e quindi tenta questa via, ma è chiaro che Milan e Inter non si possono più permettere di essere fuori dall'Europa. Il Milan questa politica l'ha fatta anche gli anni scorsi, l'anno in cui ha vinto lo Scudetto, era l'anno di Inter, ha fatto investimenti fortissimi e poi ha mobilitato e quindi ci sono stati primo posto e c'è stato l'ottavo posto, però la filosofia è questa, è quella di provare a saltare le tappe. Poi è ovvio che fa un po' strano qui nella radio di Confindustria di Sole 24 Ore in qualche modo caldeggiare degli investimenti così poco economici, no? Di prospettiva, perché sappiamo benissimo, io sono il primo a dirlo, che Ibra è una follia dal punto di vista. Da un lato ci sono i soldi, dall'altro i risultati sportivi. Però piano. Se vuoi provare a vincere qualcosa nella vita, secondo me lui è il migliore che c'è. Quindi secondo me la provocazione di Pasquale ci sta. Ciao Pier, ci sentiamo domani alle 2. Ciao Pierluigi Pardo. Volevo parlare del calcio greco con te, ma ho 40 secondi. Poi ne parliamo. Comunque, chi ha curiosità di capire perché si dice Italia, Grecia, una faccia, una razza, può leggersi uno degli ultimi post che è sul mio blog, in cui vengono spiegate tutta una serie di vicende molto simpatiche sulle big greche. Ma lo sport greco, non solo il calcio, Panathinaikos, Olympiakos, sono superpotenze ad esempio del basket. Beh, hanno dietro i famosi armatori. Bravo. Che essendo Come stanno? Oltre alcune miglie marine non pagano le tasse, e quindi si sono permesse di vivere al di sopra delle proprie possibilità. Ma per esempio, una storia piccolissima: uno degli ultimi presidenti dell'AEK Atene aveva detto pago tutte le tasse, ci mettiamo a posto, abbiamo 23 milioni di ammanco. Poi si è scoperto che non pagavano le tasse da una vita, c'erano 170 milioni di debiti e l'hanno arrestato. C'era un certo pregresso. Grazie Marco Merinazzo, grazie per Luigi Pardo, ci sentiamo subito dopo il GR. Grazie di tutti, di tutto, e una buona estate a tutti. Tutti convocati. Convocati. Bene, prima di tornare a parlare con voi, di parlare ancora di Tour de France, di basket, perché ieri abbiamo lasciato un po' in sospeso il discorso dei nostri nell'NBA, da oggi giro dei ritiri. Allora, partiamo dalla Fiorentina, ha parlato Pasquale. Sicuramente abbiamo cambiato tanto, lo staff è cambiato tutto e anche i metodi comunque sono leggermente diversi. Il mister chiede grande pressione per recupero palla in maniera veloce, per poi mantenere la gestione del possesso e anche per recuperare. Sono arrivato dopo e comunque ho trovato una squadra allegra, una squadra che ha voglia di lavorare e soprattutto una squadra contenta di quello, del lavoro che stanno facendo. Ora l'importante è che comunque di ottenere dei risultati importanti comunque come le stagioni passate. Andiamo alla Lazio, Djordjevic. Era un anno difficile per me perché avevo questo infortunio di stare fermo praticamente 4 mesi per l'infortunio, e quest'anno voglio fare ancora meglio e abbiamo fatto tanto, la squadra ha fatto una stagione molto molto importante, abbiamo riuscito di finire terzi, ma quest'anno abbiamo gli stessi obiettivi e speriamo di fare ancora quest'anno così bene. Mentre c'è chi ci ricorda di SMS, che la schisceta è il contenitore di latte in cui si trasporta il cibo, non un panino, noi lo sappiamo. C'è chi ci ricorda che si dice schisceta con la E aperta, va bene. Chievo un poco. Io parlo tu, mister, direttore e presidente, and molto buona conversation and convince me to come to Chievo. Sei contento di essere rimasto nel campionato italiano dopo l'esperienza a Cagliari? Sì, per me è molto importante to giocato in Serie A and Chievo do everything for me to convince me to come and to stay in Serie A with a lot of other clubs as well interested, but per me è molto importante the mister and io to parla mister and mister convince me to come here. Italian English, se ce n'è uno. Giuseppe, provincia di Reggio Emilia, Francesco da Catania. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, salve, grazie per avermi convocato. grazie a lei, dica. Fare complimenti al mio grande Torino, Ventura in primis. Sento male. Volevo fare i complimenti al Torino e a Ventura, grande allenatore quest'anno. Sì. Porterà sul campo, perché addirittura Padesi, Glick hanno sentito l'aria e sono rientrati addirittura qualche giorno prima della partita. Secondo me è un segnale positivo. Ma il Toro mi piace, io purtroppo la sento piuttosto male, però mi piace sottolineare come il Toro sia una specie di clinica sportiva per rigenerare i giocatori, perché abbiamo visto Cerci che Roma fallimento, Firenze mandato via dalla disperazione, Torino grande stagione e poi abbiamo visto cosa ha fatto l'Atletico Madrid, cioè quasi nulla, e il Milan quasi nulla. Immobile ha fallito a Dortmund, adesso vediamo a Siviglia. Maximovic è un giocatore ora quotato 15 milioni di euro con risposta negativa da parte del Toro. Darmian 20 milioni di euro ceduto al Manchester United, e quindi secondo me questo rende abbastanza merito a Ventura e all'organizzazione del Torino. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Chiamo da Catania, tifoso del Napoli dal 1982. 82, 82. L'anno di crawl. L'anno di crawl, sì, aspetti che faccio mente locale. Sì, crawl. Poi chi c'era? Qualche anno prima di Maradona. Sì, sì, questo lo so. Chi c'era in quel Napoli? Poi c'erano Musella, Gaetano come attaccante, sì. Castellini in porta, Bruscolotti, sì. Ferrario, Celestini. Insomma, coppia centrale, Kroll, Ferrario, sì. Esatto, esatto. A proposito di difensori centrali. E io ho visto poco fa che avevate posto la questione Higuain, farlo partire o no. Io francamente credo che non avrebbero trovato un acquirente, ma l'avrei lasciato andare anche a 50 milioni. C'era una plusvalenza di 10 milioni rispetto a quando è stato preso. Mi prendevo due leoni in difesa da 20 milioni l'uno, in modo che finalmente questa difesa si chiudeva una volta per tutte. Mi prendevo Immobile insieme a Insigne e Gabbiadini in avanti, e non avevo bisogno di trovare chi sbagliava i rigori per l'anno prossimo. Sì, il problema è che ho la sensazione che le offerte non siano arrivate, e credo anche che De Laurentiis faccia bene in questo momento a non cedere giocatore. È chiaro che se arriva qualcuno con una valigetta con dentro 90 milioni De Laurentiis deve vendere, ma credo che in questo momento De Laurentiis faccia bene a trattenere il giocatore. Perché sì, perché è fisiologico, perché comunque è il capo giocatore del Napoli, è il simbolo del Napoli, e arriva da una stagione, diciamocela francamente, deludente. Tour de France. Ormai è praticamente in vista del traguardo Chris Froome, la sua legge, la legge della maglia gialla, oggi senza ombra di dubbio la legge del più forte. Lui e la sua squadra hanno dato una mazzata fortissima alle ambizioni di tutti gli altri, una ipoteca grande come una casa che già al primo giorno sulle grandi montagne, alla prima salita vera della Tour, va a mettere sulla Gran Boucle Chris Froome. Mentre c'è chi mi scrive che l'Italia English di Poco del Chievo è comunque migliore del Kazar English di Renzi, senza fermarsi, via sms. Allora, Ivan Basso operato oggi, prognosi ampiamente positiva, ed è l'unica notizia che ci importa in questo momento. Contiamo di sentirlo nei prossimi giorni. al Tour de France, io credo che la Grand Boucle sia praticamente finita. Pier Augusto Stasi, ciao. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Tutto finito? Beh, sai, la logica ci dice questo, perché Froome è eccessivamente forte, molto forte. Ieri ha dato una dimostrazione di condizione esuberante. Mm. E i suoi avversari, da Quintana a Van Garderen, passando per Contador, Valverde, Alvando, al nostro Nibali, sono stati veramente frullati, no? Con le sue pedalate ad altissima frequenza, alle ridotte in poltiglia. Quindi siamo, diciamo, ai dettagli, dobbiamo solo sapere chi andrà con lui sul podio, se non succederà nulla. Certo che uno diciamo, però può cadere. Certo che è strano, Pier, che cioè, dopo 10 giorni il Tour de France è finito. Anche l'anno scorso avevamo visto qualcosa di simile con Nibali, che aveva messo l'ipoteca sulla maglia gialla dopo la foresta di Arenberg. Però anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una corsa che prima della metà ha già un vincitore. È una squadra uguagliante, Froome è molto forte, si è preparato, mentalizzato alla perfezione da oltre un anno, perché ricordiamo sì, che l'anno scorso lui era partito, perché abbiamo memoria corta, no? Molti raccontano, ma Nibali ha vinto un tour contro nessuno, mancava Froome e Contador. Beh, è una bugia. C'erano Froome e Contador. C'erano, ma è a Sheffield, seconda tappa, quando che era molto più duro del muro di Wii, tanto per essere chiari, quando partì secco Vincenzo Nibali, fasciato con la maglia tricolore, Froome e Contador restarono sulle gambe, tutte e due. Froome aveva il numero uno sulla schiena, Froome partiva con i favori del pronostico, si partiva dalla sua Gran Bretagna, non era in condizione, la frullata non gli riuscì, provò a uscire, provò a contrastarlo e Vincenzo si è andato a vedere il filmato, gli scappò nuovamente in faccia e arrivò da solo. Sì, senti, poi nella tappa del padre. Senti, c'è Armstrong che ha twittato i suoi dubbi sulla pulizia di Froome. Twitta il veleno. Che... Però Carlo, consentimi di non parlare di un santo. Io non sono, voglio fare il bigotto, perché sono ho visto abbastanza, non metterò mai più la mano sul fuoco per nessuno. No, io neanche. L'esempio più negativo dello sport mondiale, non del ciclismo. L'esempio più negativo, ma non perché si è drogato. Te lo spiego, non perché si è drogato come una moltitudine di sportivi e in particolare di ciclisti, ma perché Armstrong ha organizzato una rete di controllo sì, che era pazzesca, da Al Capone dello sport. E quindi sì, con me, sì, cioè io la storia la conosciamo, se non in questi termini. La storia la conosciamo, la storia la conosciamo. È un gangster dello sport, non è un drogato. I drogati ce ne sono stati tanti, cercano di fare furbi, fanno i furbi tra di loro e spesso e volentieri vengono beccati. Benissimo. Uh-huh. Però quando tu sei protetto dal governo mondiale della bicicletta, quando lui se lì sa perfettamente cosa prende e cosa non prende, sta zitta solo perché prende le mance, prende dei soldi sotto banco da Armstrong per comprare macchine per fare la lotta al doping, questa è la barzelletta. E se non ci fosse stata un'organizzazione, ricordiamo che Armstrong è andata a finire nelle ronde non perché per la lotta al doping sportivo, ma per una lotta di giustizia ordinaria. Se non c'era una banca, una assicurazione americana, la SCA, che metteva in atto una serie di protezioni e non si avvaleva anche di 007 e di testimonianze pesanti, veniva sbugiardato uno dei più grandi bar dello sport mondiale. Sì. Ecco, quindi che Lance Armstrong si permette di dire qualcosa di alzare, non mi piace. di alzare dei dubbi, di alzare della polvere, io sono d'accordo con te, insomma, non da quel pulpito, insomma. Eh? Hai riassunto perfettamente il mio pensiero. Ah. Non deve essere lui, non da quel punto. Capito? Il gradevole non può dirlo lui. Lui prima deve chiedere scusa. Profondamente no, ma semplicemente no, ma Pier, semplicemente basta, semplicemente basta, cioè basta il silenzio, cioè ne abbiamo avuto abbastanza, quindi non da quel pulpito alzare la polvere sulla maglia gialla. Se poi scopriremo qualcosa di diverso da altri pulpiti ne parleremo, ma non da quello, non da quello. Ciao Pier Augusto, ci sentiamo domani. Ciao Carlo, buon ciao. Pomeriggio. Ciao Pier Augusto Stagi. Allora, io torno a collegarmi con New York City, perché ieri abbiamo avuto chiacchiere troppo frettolose con Simone Sandri, mentre ci sono varie storie che meritano di essere approfondite. Ciao Simone. Buon pomeriggio Carlo. Ciao, allora, ieri abbiamo lasciato in sospeso da Tome, che per tanti soldi passa al Fenerbahce, lascia i Boston Celtics, con tanti ringraziamenti lascia l'NBA che non gli ha dato tantissimo. Hai detto bene, innanzitutto tanti soldi, perché consideriamo il contratto, una cosa che molti non considerano è che i contratti americani che sentiamo nominare sono lordi, per cui quando parliamo, sentiamo di un contratto da 1.7 euro, da Tome avrebbe potuto prendere probabilmente un minimo, quindi circa $1 milioni negli Stati Uniti, considerato il fatto che togli le tasse diventano praticamente $500 mila, per cui la differenza è abissale. Sì. Quindi da questo punto di vista è da considerare. Secondo, non aveva tanto mercato da Tome, dobbiamo essere sinceri, non aveva tanto mercato, per cui era i 2 anni che ha fatto in NBA, praticamente ha dimostrato qualcosa soltanto nel finale con i Celtics, ed è un peccato perché da Tome è un giocatore che per certi tipi di caratteristiche nell'NBA ci può anche stare, i suoi problemi sono ovviamente a livello difensivo e anche a livello di ruolo, perché purtroppo fisicamente non ha un vero ruolo nell'NBA a livello difensivo, per cui ha purtroppo nell'NBA fa fatica, a meno che non fosse in un certo tipo di contesto. Ed è stato un peccato, perché da Tome bisogna anche dire che è un ragazzo splendido, è un ragazzo che è riuscito a farsi voler bene da tutti in NBA, ed è anche per quello alcune squadre avrebbero voluto dargli una possibilità, il problema era che era difficile trovare un posto. Però posso dirti, la scelta non è sbagliata, tanti soldi e va a giocare per un per il più grande allenatore europeo che è Zeno Obradovic, e non è detto che non ci possa essere un ritorno. Secondo me è una strada corretta quella di Datome. Sentiamo invece Gallinari sulla prossima stagione e poi parliamo delle sue prospettive in NBA. Sarà appunto una stagione importante non solo per me individualmente, ma anche per la squadra, visto che l'anno scorso non è andata bene, e quindi la franchigia, la società vuole risollevarsi, ed è secondo me il momento giusto, e insomma, speriamo di essere tutti pronti sin dall'inizio. Simone, il futuro del Gallo qual è? Il futuro del Gallo è un po' un punto di domanda, nel senso, questo è il suo ultimo anno di contratto, deve sicuramente dimostrare di aver innanzitutto messo alle spalle l'infortunio, e giudicando comunque dagli ultimi 2 mesi della scorsa stagione direi che questo non dovrebbe essere un problema. Denver è una squadra difficile da inquadrare in questo momento, ha cambiato allenatore, ha preso Mike Malone che è un ottimo allenatore, però ha fatto un mercato tra virgolette a risparmio, ha dei problemi con il suo playmaker Lawson che sta cercando di cedere e ha avuto anche dei problemi con la legge. Addirittura su Gallinari si è parlato di un paio di rumor per possibili scambi, nulla di che, però Denver, se fosse l'offerta giusta, potrebbe anche lasciarlo partire. Io non credo che arriverà l'offerta, perché le squadre che erano interessate non avevano molto da offrire. Diciamo che essendo l'ultimo anno di contratto è sicuramente l'anno più importante della carriera del Gallo, questo credo che siamo un po' tutti d'accordo. Sì, questo sì. Bargnani a Brooklyn. Bagnani a Brooklyn è il cosiddetto movimento low risk, low reward, perché i Nets sono una squadra in transizione, hanno abbassato di molto i loro ingaggi, hanno fatto un buyout con Deron Williams, che è un giocatore che è molto vendente a Brooklyn, e adesso cercano questa transizione. Sono una squadra che nella migliore delle ipotesi possono puntare al 7º-8º posto, e da Bagnani non è che si aspettano molto, perché comunque va come un giocatore al minimo di contratto, per cui senza grande pressione. Forse potrebbe essere proprio questo il vantaggio di Bagnani: finalmente arriva in un posto dove in teoria non dovrebbe avere pressioni, perché il giocatore al minimo non arriva certo con le aspettative che poteva avere a Toronto la prima scelta assoluta, o a New York, per il fatto che è arrivato con un contratto importante e con un sacrificio importante da parte di New York. Secondo me potrebbe essere la sua occasione per il riscatto. Deve cambiare un pochino l'atteggiamento. Bagnani è arrivato a un punto in cui deve dimostrare, da un punto di vista proprio dell'atteggiamento, che deve un po' cambiare marcia, e secondo me potrebbe essere un po' una sorta di bagno di umiltà quello che è successo a New York negli ultimi 2 anni. È un'occasione importante per Bagnani per dimostrare di poter cambiare un po' l'opinione. Che ultima chance, tu dici? Di lui nell'NBA. Ultima chance. Credo proprio di sì, credo proprio che sarà l'ultima possibilità per andare a Bagnani. Grazie Simone. Grazie a presto. Ciao Simone Sandri da New York. Chiudiamo con Domenico dalla provincia di Mantova. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Io volevo solo farvi delle domande in merito alla Juventus, sono juventino sfegatato. Sì. Volevo sapere se il gap delle altre squadre, secondo voi, sulla Juventus è diminuito, e cosa ne pensate di Khedira, perché secondo me non lo vedo tanto da Juventus, mentre sono contentissimo per Dybala. Io lo vedo. Lei lo vede? Sì. E allora la ringrazio, perché io non lo vedo molto, sì. Khedira. Khedira è un giocatore che a me è sempre piaciuto. Non lo so, non mi ispira. Da juventino non lo vedo juventino, mettiamola così. Mentre Dybala. Questione di gusti, ma. No, perché no, è fortissimo, solo che. No, Dybala, la differenza che Dybala. Talento enorme, giovanissimo, giovanissimo, deve ancora costruirsi una carriera a livello di top club. Khedira è uno che arriva da Real Madrid, è uno che arriva dal Mondiale con la Germania, è uno che arriva da grandi esperienze internazionali, e secondo me è un grande acquisto per la Juventus, quindi su questo ho pochi dubbi. È chiaro che non è il giocatore che ti illumina la squadra, però è il giocatore di cui la Juventus in quel centrocampo, senza Pirlo e magari con un disegno diverso, aveva bisogno. Parliamo domani? Giorgio De Luca, nostro autore, Giovanni Mecchione in redazione, Gian Paolo Corleone in regia. Ciao a tutti, a domani alle 2. Ciao, aiuto.